Anche quest'anno è stato entusiasmante realizzare il programma di Bimbo Arte. Ogni anno è una scoperta anche per noi ed è sempre bellissimo. Quest'anno cominciamo la programmazione il 22 e abbiamo sempre la programmazione per le scuole e la programmazione per le famiglie. Partiamo con quella per le scuole. Abbiamo una bellissima visita a Bologna di 2000 anni fa. È un appuntamento unico con i History Lab. Questo è realizzato per una classe quinta e si dovranno prenotare. Per le famiglie abbiamo diversi laboratori, alcuni li ha anticipati Beatrice, sono bellissimi. Abbiamo un laboratorio Testa fra le nuvole con Noemi Bermani di Spazio Labo, abbiamo gli indizi fotografici di Alessandro Boni domenica 24, abbiamo questo laboratorio che è una novità per noi perché noi abbiamo sempre fatto una programmazione che partiva dai bimbi nella pancia e le donne in gravidanza fino più o meno a 10 anni. Quest'anno apriamo agli adolescenti con la fotografia contemporanea insieme a Spazio Labo, da non perdere anche per i bambini più grandi. Gli indizi fotografici ve li ho già raccontati. Abbiamo un laboratorio venerdì 29 alle 18 con immagini e tinture vegetali. Realizzeremo con gli scarti alimentari le tinture per poi realizzare e colorare le foto. Abbiamo un'attenzione particolare anche per le donne in gravidanza e bambini appena nati, è sempre stata una nostra peculiarità. Quest'anno con Cristina Venturi dell'associazione Montessori di Bologna realizziamo questo scrapbook e lo costruiamo proprio col metodo Montessori. Sono delle memorie, delle foto, delle emozioni delle mamme per tutto il percorso della pancia e anche fino all'anno di vita. In via di definizione abbiamo l'abaco del mio quartiere, vi faremo sapere prestissimo la data, cura dei servizi educativi di Genus Bononi Musei la città. Cos'altro? Magiche scoperte. Sono i kit lab. Come diceva Beatrice, noi tutti gli anni abbiamo fatto sempre laboratori in presenza. Quest'anno, essendo proprio non è possibile, quindi per questioni di sicurezza, abbiamo comunque pensato ai bambini a casa. Quindi abbiamo realizzato dei kit lab e sono dei, in questo caso, dei tubi o delle scatole che vengono consegnate alle persone che faranno i laboratori e seguiranno da casa l'operatore che gli farà realizzare il laboratorio. Quindi è una particolarità e una novità di quest'anno.